Entertainment element. Water, air, earth. Sospiravo nel silenzio di mattina, giacché in vano avevo chiesto ai miei libri di lenire il mio dolore, il dolore per la perduta Lenore, che qui non avrà mai, mai più, mai più. Una volta in una tetra mezzanotte mentre meditavo stanco e sconsolato, le finestre mi sorrisero tra fessure d'un sol fiato, chi figlia con il sonno sente il battito piumato. Ci son cose da supporre, cose che passano a lato, ci son cose da nascondere che bussano fin quando non le apro. Giuro che ho paura, il mio soffitto è così vuoto, cammino pozzo ardente, torbo corpo appollaiato. Lenora maestosa, il re non ha qualcosa, principessa di dicembre, tutta ombre non infuoca. Il topo nello scrigno scrive spazza con la coda, se penso a cattiverie piange vodka. Intanto un volteggio s'appoggia sul mio leggio, cornacchia senza titoli, che fai nel buio mio? Intanto un volteggio s'appoggia sul mio leggio, cornacchia senza titoli, che leggi nell'oblio? Inducendo allora quest'uccello d'ebano un po' il sorriso, i miei tristi pensieri, orrido, cupo e antico corvo, qui giunto dalle rive della notte. Dimmi, qual nobile nome è il tuo sulle plutonie rive della notte? Disse il corvo, mai più. Name an element. Water, una favola sera per fare sonni tranquilli, perché nel dormiveglia mi svegliano gli stilli di una bambola in ceramica che ha occhi come spilli. Lenore, mai più dormirai senza vedermi, le cime di allegria avranno nevi perenni, e domani non vorrai nemmeno alzarti, che alla luce sono peggio se continuano quei sogni. Inutile che appari, perché tanto non potrò dimenticarti. Oggi, domani, immagini che stracci, paure prese a calci che tornano a provocarti. Raccontami una favola, ma non se dopo piangi. Elabora una fine così finta dove bambole hanno figli, ma non dirmi che non possono allattarli. Mentimi, ma fa che non possa scoprirti, e ce l'ha sempre il segreto degli angeli, perché potrebbero cadere se volesse punirli. E mentre il corpo ancora induceva il sorriso nei tristi pensieri, io sospinsi la mia poltrona fino alla porta, innanzi al busto e innanzi a quel corvo. Quindi, affondato nel velluto, mi diedi a collegare pensiero a pensiero, domandandomi che cosa mai quel sinistro uccello d'altri tempi, che cosa mai questo cupo, goffo, avido, infausto e sinistro uccello d'altri tempi volesse dire, cracchiando mai più.